Yellow Swans, abbiamo riaperto la seconda parte di 451 frammenti sonori, musiche postume, post-trauma 00, proprio con loro abbiamo chiuso la prima parte e riaperto la seconda, giustamente, pezzo di una quindicina di minuti dal loro Gong Place, un disco veramente superbo come buona parte della produzione di Yellow Swans, che, come dicevo prima, insomma, appartengono a quei rumoristi americani che comunque nel corso del tempo sono riusciti anche a aprirsi verso, appunto, vaghezze cosmicheggianti, echi di mondi lontani se non lontanissimi, una sorta di escapismo superbo e veramente forte e lancinante nel suo essere così, appunto, profondo e anche così lanciato, però verso, insomma, un altrove che comunque si intravede, intrasente anche da queste armonie distorte che comunque ci portano, appunto, decisamente in là con la testa. Musiche postume nel vero senso della parola, post-traumatiche anche per loro stesso divenire, da musiche urticanti e veramente sature al massimo nei primi anni zero, quelle, appunto, del noise americano, fino ad arrivare a questi vagheggiamenti estremamente anche conturbanti, perché no, appunto, la fascinazione della catastrofe dentro Yellow Swans, come d'altronde, se ci può essere una fascinazione, c'è in Aufgehoben per quanto riguarda suoni catastrofici portati veramente al parossismo, con un senso che così dà possibilità a un estro quasi dadaista, e che quindi ci porta anche, insomma, quasi a divertirci sulle macerie. Aufgehoben da una decina d'anni veramente fanno del suono una sorta di tritacarne impossibile, veramente ai limiti dell'eccesso sonoro, seppur con una cura eccezionale del suono, che sentiremo anche in quest'ultimo disco uscito anch'esso da pochissimo tempo, questo The Fragment of the Marble Plain, dai tremendi, meravigliosamente oserei dire tremendi, Aufgehoben, già un nome, insomma, che incute terrore, ma anche, insomma, quel senso assolutamente giocoso, pericoloso, pericolosamente giocoso, appunto, perché si basa su una maceria sonora, su una maceria, appunto, se vogliamo, anche di cultura musicale, di cultura derivata da suoni e suoni che vengono rimasticati, triturati, appunto, defragrati, come solo loro sanno fare in questi ultimi periodi, o perlomeno che fanno in maniera assolutamente originale. Aufgehoben. sfidano veramente i livelli uditivi, anche quelli più propensi a rumore. Con Auf Geoben si tocca uno dei punti massimi dell'attuale, perché poi il giochino è sempre quello di dire più di così non si può fare, poi in realtà tante esperienze ci insegnano che invece si può fare, come si può fare. Auf Geoben in effetti percorrono quel paesaggio assolutamente bombardato di molta musica impro radicale, rumorista, di forse anche ascendenza snuff jazz, verso quei lidi di certa industrial più cacofonica e più propensa a una sperimentazione sul suono urtificato e urtificante. Auf Geoben appunto tornano dopo qualche tempo che non si facevano sentire le loro urla belluine, appunto da strumenti che sembrerebbero non poterle mettere, invece ci riescono, e come. Tornano appunto nel 2012 con questo Fragment of Marble Plain. E se dobbiamo parlare insomma di personaggi che ad esempio probabilmente hanno anche influenzato per certi versi Auf Geoben, sicuramente Brum viene da quella scuola industrial o post-industrial che ha lavorato molto sul livello del suono, della ricerca appunto sonora, in quanto white noise ricercato e nella possibilità insomma di creare nuove frequenzialità, anche cosa piuttosto riuscita in un progetto che insomma si voleva anche piuttosto minore alla fine degli anni 80, e che invece nel corso degli anni ha sviluppato veramente una particolarità tutta sua, in questo caso dei figliocci di Brum, come forse anche per alcuni aspetti Auf Geoben, se non fosse per questo paragezzismo vaghissimo di Auf Geoben. Invece con Brum, con Commissar Euler, si va invece proprio su una forma quasi di filiazione diretta, un dadaismo cercato e voluto e trovato anche per molti aspetti. Non me ne vogliono coloro che non amano insomma cercare categorie e quindi insomma tirare fuori le avanguardie storiche, ma di fatto insomma Commissar Euler non credo che abbia male se insomma gli do del dadaista. D'altronde insomma i riferimenti sono anche vari, tanto che il loro scherzare anche su Narsuitun, ad esempio, anche essi sicuramente maestri e padri sonori di certe sonorità appunto che vengono ripercorse da Commissar Euler, vengono insomma come dire parodiati, ma citandole ovviamente. D'altronde la parodia per un gruppo che ancora sperimenta, per una progettualità insomma aperta a questo, è chiaramente insomma in forma di citazione. Invece se di citazione si può parlare per il progetto di Steve Stapleton, di vera e propria collaborazione invece con Brum per questo disco seriamente interessante, è percorso veramente da frequenze disturbanti, se non proprio cattive. Diciamo che la cattiveria non è diretta, ma è indiretta in questa sua allusione a questi mondi appunto e frequenzialità che derivano appunto da queste desolazioni globali che vengono appunto percorse da Brum e Commissar Euler con queste appunto forme di ambientazione terminale anch'essa. Beh, d'altronde questa sera direi che ci siamo nel vero senso della parola. Brum e Commissar Euler. Die Organisation der Haltungen anderer, dem Individuum gegenüber und gegeneinander im Prozess der kooperativen Interaktion. Selbst spaltet sich in I und U. Dieses Selbst spaltet sich in I und U. Thank you. selbst spaltet sich über eine kreative Seite, die Antwort des Einzelnen auf die Haltung der anderen ihm gegenüber. Wenn wir bei Freud die ganze Entwicklung an. Was meint er jetzt mit Identität hier? Ja, dass man irgendwann die eigene Identität. Was ist denn die eigene Identität? Ja, dass man dass man die eigene Person erkennt. Dass man eine Stellung einnehmen kann. Also eigentlich eine Stellung einer Person, die mich von auch nicht selbst sehen kann, im Sehen, das muss ich ja können. So kann ich ja keine Erwartung oder eben generalized other nicht an die CP abgeben. Für das erste Mal, dass von den anders gefasst und anders definiert, weil wenn die Sozialisation oder aber. Hey, Rollen. Dabei sind Rollen immer komplementär, das heißt, es werden von den Handelnden immer gleichzeitig über die eigenen Erwartungen gesellschaftlich der Sozialisationsmechanismus des Role-Taking klärt nicht, unter welchen Umständen es überhaupt möglich ist. Die Fragen nach schichtspezifischen Unterschieden sind in dieser Fähigkeit sind nicht geklärt. These, Unterschichtkinder werden in frühkindlicher Sozialisation gegenseitigen Role-Taking nicht vermittelt. Das heißt, sie können die Fähigkeit zum kommunikativen Handeln nicht entwickeln. Daraus folgt eine Benachteiligung im Hinblick auf das Interaktionsverhalten in der Schule, weil sie die Intentionen des Lehrers nicht erfassen können und sie ihrerseits die eigenen Intentionen nicht erfassen können, so den Blick auf die Wirklichkeit. Mom! Thank you. E se l'Apocalisse dà quel senso dell'assurdo, magari anche divertito da parte di Commissar Euler, capisco che magari molti possono trovare anche imbarazzante il divertimento di Commissar Euler, ma tant'è, insomma, che c'è veramente anche tanta ironia dentro la musica di Commissar Euler, seppur come Auf Geoben, un'ironia così un po' che sa di veramente di sorriso amaro, se non addirittura acido, perché è sulla catastrofe che si ironizza in compagnia chiaramente di Brium, che è uno storico, insomma, di suoni apocalittici o vicini, insomma, a quella attitudine, con una ricerca veramente di grosso spessore artistico per quanto riguarda appunto i percorsi sulla modulazione, la manipolazione del suono, quindi insomma direttamente dentro poi a quelle che dalla fine degli anni Ottanta, per portarci fino ai nostri giorni, sono appunto le ricerche per tanti aspetti anche più interessanti, anche nello stesso rumore che questa sera sta attraversando tanto, 451 frammenti sonori, non solo quello, chiaramente non solo di questo ci ciba la musica postuma, post trauma 02, ma anche appunto di frequenzialità che possono venire da certe sonorità decostruite su tanti e tanti generi, su tante attitudini. E da Brium con Commissar Euler, appunto, a personaggi che forse non dovrebbero neanche essere presentati, se non è questo un caso piuttosto particolare, visto che sono insieme personaggi che forse non, per molti versi non dovrebbero magari fare cose cattive di questo tipo. Ovviamente la cattiveria in questo senso è nel senso buono, se non buonissimo, perché Richard Pinat viene fuori da un prog anche piuttosto, insomma, alterato, dentro elettroniche anche di ricerca alla fine degli anni 70, con gli Eldom si solcava anche per certi versi, ma a volte anche il rumorismo, seppur sempre dentro quelle corde molto 17. Poi la ricerca di Pinat è continuata, avvicinandosi anche poi negli anni 90 con dischi piuttosto criptici verso un modo di tratteggiare il rumore molto originale, memore appunto anche di appunto le sue vecchie lavorazioni con Eldon e con i suoi lavori solisti del fine degli anni 70, in ambito, diciamo, paraprog, se non fosse una bestemmia parlare di prog adesso, diciamo art rock, così forse magari cerchiamo di non svilire la musica di Richard Pinat, anzi tutt'altro, molto vicino poi tra l'altro alle visioni e ai discorsi musicali, se non che filosofici, di Gilles Deleuze, proprio sulla musica rizomatica. Tra l'altro proprio anche partecipato Deleuze proprio a un lavoro con Richard Pinat, insieme a lui il titolo comunque Metal Crystal è titolato Richard Pinat solo, poi in realtà dentro c'è Merzbow e ci sono i Wolf Eyes, quindi un mondo ultra noise che conosciamo bene, quello di Masama Kita, che si va a incrociare veramente in maniera piuttosto particolare con quello di Pinat. Tra l'altro è un'uscita anche in questi giorni un loro disco insieme, Wolf Eyes, che appunto tornano dentro il mondo loro dei rumori, in questo caso dialettizzandosi veramente in chiave decisamente intelligente con Pinat. Già sembrava assurda la collaborazione con Braxton, invece portò veramente a un disco notevole come Black Vomit. Qua appunto si ritorna a quel senso veramente acuto di Wolf Eyes di tratteggiare il rumore anche dentro sonorità che non sono magari vicino alle loro, come quella di Pinat, e invece quelle magistrali di Merzbow per tutti quelli che vogliono e sanno fare appunto rumorismo l'altro ieri, oggi e forse anche domani. Pina, Merzbow e Wolf Eyes appunto per continuare questi suoni postumi. Beh, vi siete divertiti, immagino, vero? Richard Pina, Merzbow, Wolf Eyes nel loro Metal Crystal, anche se il titolo è soltanto sotto la ragione sociale di Richard Pina, in realtà anche, insomma, c'è anche Merzbow e Wolf Eyes. E poi abbiamo voluto, insomma, tributare a un altro eroe, come dire, quei sintomi del morbo già negli anni 90, un personaggio come Eric Wood con Bastard Noise, proprio con uno split insieme a Merzbow, portava anch'egli, come dire, al massimo esponenziale il white noise, dentro appunto un'esperienza sonora e anche uditiva, insomma, piuttosto estrema, appunto di fuoriuscita sia da quelli che sono i canoni d'ascolto, sia per quanto riguarda appunto manipolazione e modulazione del rumore. Veramente una sorta di sfida anche a amplificazioni, alle strumentazioni e agli impianti, appunto, hi-fi e forse anche no-fi a questo punto, visto che si cerca anche un suono cacofonico, seppur piuttosto personale. Poi in realtà poi è questa la scrematura che fa molto dentro white noise, dentro le musiche rumoriste, che potrebbero sembrare, insomma, così molto, ma molto superficialmente molto simili. Poi in realtà si trovano, insomma, grandi maestri come Masami Akita, ma come lo stesso Eric Wood, che appunto portava una sua peculiarità, un suo suono, un suo marchio dentro Bastard Noise, come d'altronde lo faceva anche in Man is Bastard, storica formazione legata all'hardcore, all'alternative tentacle di Jello Biafra, vicino, insomma, a quel mondo estremo del punk. Ho portato verso appunto il noise attraverso l'hardcore che si utilizzava dentro l'Alternative Tentacles, appunto la particolarità di Eric Wood è poi quella di esasperare quella progettualità noise più che hardcore, o forse il noise dentro appunto le corde dell'hardcore, e portarlo verso una sorta di power electronics, di rumore estremo, di fascinazione veramente notevole, se non fosse appunto per un ascolto che sicuramente va ricercato dentro quella terminalità, dentro quel suono postumo che questa sera abbiamo appunto ricercato dentro 451 frammenti sonori. Un suono che se con Bastard Noise e Man is Bastard ancora sintomo della fine degli anni 90, di quello che poi avverrà appunto col trauma degli anni zero. Abbiamo appunto iniziato la trasmissione ricordando la caduta delle due torri a New York e poi appunto la crisi che tuttora, insomma, attanaglia e coinvolge malauguratamente per molti aspetti, però per altri, insomma, crea appunto quel postumo, che quel post che forse rende anche interessante tutta la faccenda, insomma, di trapasso che comunque dà la crisi inevitabilmente e che appunto stiamo forse anche vivendo, chissà. Appunto, facendo un omaggio a uno dei grandi del suono postumo di sempre, come Eric Wood, sia prima con ancora in sottofondo con Bastard Noise e adesso con la sua prima progettualità sintomatica, ripetiamo, di quel suono noise americano degli anni zero, per poi appunto concludere con un momento di assurdismo anche fuori forse dal noise, solcato da una buona, insomma, mezz'oretta, se non proprio dalla tutta quasi la seconda parte di 451 frammenti sonori. Man is Bastard, appunto, dopo Bastard Noise. E come avevo detto, avremmo finito, insomma, non nell'ultra noise di Pinam, Herzbow, Wolfeyes, Bastard Noise, oppure di Broom con Commissar Euler, Afgeoben, perché no, anche se poi avete sentito, insomma, la varietà della faccenda. Se non l'avete sentita, ohimè, ho sbagliato a far qualcosa forse, e beh, comunque, a parte gli scherzi, così un modo per omaggiare anche Eric Wood, in questo caso con la sua progettualità Man is a Bastard, qua si divertiva così a ricreare quasi un suono primigenio elettronico, prepared non piano ma bensì Hammond, quindi un Hammond preparato per quanto riguarda Eric Wood, che appunto c'è anche questo gioco alla terminalità, alla così follia, alla quasi una folle felicità legata appunto a questo postumo, da malattia, da morbo, che forse per certi versi può essere terminale, forse no, forse ancora continuerà, chissà, dentro sicuramente molte musiche sperimentali quello non mancherà di certo, però ovviamente le forme ci interessano tanto qua a 451 frammenti sonori, come d'altronde interessano a chi segue la musica tutta, quindi le nuove forme, nuovi approcci appunto anche a natura, insomma, che vengono da molto lontano, come appunto le sperimentazioni sulle elettroniche terminali, che questa notte abbiamo trattato, sera, notte, con musiche postume, appunto Post-Trauma 00 con J.K. Flash, progetto di John Brodkin, il suo ultimo disco, Andy Stott, Ectoplasm Girl, Yellow Swans, nella seconda parte, appunto, come dicevo prima, Afgeoben, Broom con Commissar Euler, Richard Pina, Merzbow Wolfeyes, e per terminare appunto questo omaggio a Eric Wood, uno, insomma, dei protagonisti sintomatici, e come dire, sintomatica la sua musica, appunto, di questo grande morbo che abbiamo trattato questa sera. Io vi saluto, vi rimando appunto alla prossima domenica in compagnia di Leo Scarpa, quasi sicuramente, tranne, insomma, qualche impedimento dell'ultimo momento, sperando che non ci sia. Vi rimando quindi a tra 7 giorni, sempre a 451 frammenti sonori. Ricordo il blog 451 frammentisonori.noblogs.org, curato dal buon, come amiamo dire a queste parti, Lorenzo Albano, che salutiamo, oppure saluto sempre l'ospite ectoplasmatico, fantasmatico anche di questa sera, e vi lascio un'altra settimana appunto postuma di qualcosa, sì, fate un po' voi di che cosa, forse di tutto. Buonanotte.